Se Pinocchio fosse stata una Pinocchia, gliel'avrebbe fatto vedere a quei due. Al gatto e alla volpe. Di perfondere di sangue, quindi di ossigeno, tutti i suoi organi. Anche agli uomini dovrebbe succedere la stessa cosa. Sì, certamente. Sì, non so quanto tempo ci mettono, se ci mettono di più. Sì. però ci arrivano. Siete tremendine. Claudio Lomino ci sarebbe servito, però vabbè. Ma che magari è un omone. Magari ce la facciamo tutti e due, via. Ci presentano anche la menopausa come qualcosa che ci trasforma, come la carrozza di Cenerentola, no? Arriva la menopausa, pum, di nuovo scoppia e diventa una zucca. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Separarsi è sempre doloroso, Deborina, ma alla vigilia di San Valentino lo è ancora di più. Ma se una coppia si è spezzata, altre restano unite e nuove coppie si formeranno. Mi sembra, Nicoletta, che tu veda rosa. Sì, è un colore che mi piace, positivo, rasserenante, anche se come donna di cuore mi piace anche il rosso, colore dell'amore, della passione. Allora, io come donna di denari, già che mi hai rubato il rosso, mi prendo il verde, colore della speranza, dei dollaroni, e tutti noi speriamo di non rimanere al verde e che quindi il nostro conto non vada in rosso. Essere e benessere. Il colore è un mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto. L'occhio, il martelletto che lo colpisce. L'anima, lo strumento dalle mille corde. Kandinsky. Verde, rosso, nero, giallo, blu, grigio, siamo circondati dai colori ma anche influenzati. Secondo alcune ricerche i colori sono in grado di modificare il nostro umore, addirittura pensate a influenzare anche la percezione del nostro gusto. Ciascuno di noi ha il suo colore preferito, qual è il vostro e che colore ha oggi il vostro umore, oggi che è San Valentino? Scriveteci e chiamateci, ma diteci anche come vedete i colori, una domanda che non vi faccio a caso ma perché qui in studio con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Antonio Scialdoni, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Buongiorno dottore, ma stavamo riflettendo che, e lo sappiamo tutti, che non sempre e non per tutti e non ogni giorno la vita è colorata allo stesso modo. Ci sono delle differenze al di là dell'umore, ma soprattutto delle differenze che possiamo dire di genere. Blu, nocciola, verdi. Se gli occhi di uomini e donne sono davvero simili all'apparenza, il senso della vista sembra avere invece sfumature molto diverse tra i due sessi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Biology of Sex Difference, infatti, le donne distinguono molto meglio le sfumature dei colori, mentre gli uomini sono più sensibili nel decifrare i dettagli delle immagini e gli stimoli in rapido movimento. I ricercatori statunitensi della City University of New York e del Center for Neural Science della New York University hanno esaminato la vista di uomini e donne di età superiori ai 16 anni, con capacità visive piene e visione normale dei colori. Sottoposte a diversi esperimenti, le donne hanno dimostrato di riconoscere senza difficoltà sfumature di colori risultanti pressoché impercettibili agli uomini. Dall'altro lato, però, gli uomini riuscivano a decifrare immagini sfarfallanti, pur se non senza difficoltà, con maggiore precisione e meno fatica delle donne. Due modi di vedere il mondo, quindi, molto differenti. D'altronde, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Potete leggere la ricerca completa su Salute 24 al portale nostro amico, nostro cugino, ma dottor Scialdone. Quindi noi siamo così precisine, voi invece un po' più sfarfalleggianti. Certo, naturalmente. D'altra parte gli uomini sono cacciatori, quindi devono vedere rapidi movimenti, più delle donne, a parte gli scherzi, ma la cosa è comprensibile anche perché il colore e la capacità di percepire il colore è determinata soprattutto dal cromosoma X. Quindi uomini e delle donne hanno due cromosomi X, quelli del sesso, no? L'uomo invece c'ha XY, per cui la determinazione avviene in modo leggermente diverso. Ecco perché il daltonismo è quasi sempre appannaggio dell'uomo e poche sono le donne daltoniche. Infatti qua volevamo arrivare, dottor Scialdone, a parlare delle persone che fanno fatica a riconoscere i colori. Insomma, non è solamente questione di genere o di umore, a volte riconoscere chiaramente un colore può essere difficile e per alcuni lo è. Shrek è ferito! Shrek è ferito! Oh no! Shrek morirà! Ciuchino, sto bene! Non puoi farmi questo, sono troppo giovane perché tu muoia! Solleva le gambe, gira la testa e tossisci! Chi conosce la bocca a bocca? Ciuchino! Calmati adesso. Se vuoi aiutare Shrek, corri nel bosco e trovami un fiore blu con le spine rosse. Fiore blu, spine rosse. D'accordo, vado. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Non morire, Shrek. E se vedi un lungo tunnel, sta lontano dalla luce. Ciuchino! Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Sarebbe tutto molto più facile se non fossi daltonico. Fiore blu, spine rosse. Fiore blu, spine rosse. Resisti, Shrek, arrivo! E meno male che qui invece è arrivato il dottor Scialdone, che così ci aiuta a capire se quella difficoltà che avvertiamo magari nel riconoscere quando c'è magari poca luce, il marrone scuro dal nero, il nero dal blu, può essere segnale magari di qualche cosa, di una vista che ha un problema di vista, oppure assolutamente una cosa tranquilla, un problema di luce. O se invece quali sono le difficoltà nel percepire il colore che ci fanno capire che la persona che li sta guardando è affetta da daltonismo. Beh, percepire poco i colori quando c'è poca luce è del tutto normale, perché i coni, che sono le piccole strutture della retina che percepiscono i colori, le percepiscono soprattutto a luce piena, cioè devono ben essere stimolati, come dire, consistentemente. C'è anche un altro motivo per cui posso avere difficoltà a riconoscere le sfumature di colore, ed è la cataratta, per esempio. Quando il cristallino si opacizza, la luce passa meno e quindi tutti i gatti diventano bigi, bene o male, e faccio fatica. Il dottor Scialdone ci ha dato un'indicazione, quindi se i colori li vedete un po' sfumati, iniziate a chiamarci all'800 24 00 24, ma chiamateci soprattutto se i colori li confondete, dottor Scialdone. Esatto, se poi esiste una terza possibilità, che è quella appunto di anomalie congenite, quindi diciamo in senso generico daltonismo. Sì. Poi in realtà il daltonismo comprende all'interno tantissime graduazioni, tantissime sfumature. Talmente tante che probabilmente la quantità o la percentuale di persone, diciamo così, normali è meno della metà della popolazione. Tantissime persone hanno piccole carenze di sfumature di colore di cui non ci accorgiamo assolutamente e che poi non producono nessun effetto nella vita normale. Lo stesso Dalton, che è quello da cui è sopravvenuto e che è stato avuto la prima descrizione, pensava di vedere i gerani color blu invece che rosa. Poi è stato accertato successivamente che in realtà li vedeva verdi. Quindi il colore non è solo colore, ma è anche nome. Esistono popolazioni al mondo che non riescono a dire rosso o giallo perché non hanno un corrispondente verbale. Quindi c'è un collegamento percezione-cervello che amplia enormemente le possibilità. Siamo sicure che le cravatte dei nostri ospiti siano blu? Io vedo nella cravatta di un nostro ospite anche una piccola mela. Una melina, infatti. E poi quindi sveleremo anche di chi si tratta. Allora, beh, come San Valentino. Certo, e quindi che cosa c'entra con le cravatte blu? Ma a San Valentino si addentano le mele, ma come romantico il dottor Scialdone. Si addentano anche i cioccolatini, però non solo mele. Noi non ci addentiamo un bel niente. Come vedete, i colori 800 24 00 24. Ricordate anche di chiamarci e di scrivere, perché vogliamo condividerlo con voi. Di che colore è la giornata di oggi? Molto probabilmente sarà rosa. Se siete innamorati, magari sarà nera. Se il vostro innamorato vi ha lasciato o vi ha lasciata, noi siamo qui, raccontateci, e noi siamo pronti a dare consigli e suggerimenti per vedere la vita in rosa, dottor Scialdone. No, direi la vita com'è. giusto? Naturalmente. Sotto la luce giusta. Che è un arcobaleno. Alimentare. Alimone. Meno 5, meno 50, così. Butto. Ai, meno 10, don Ferraresi. Monferi, Dania, Zuccheri, Roma, 45 più. E io lo so che adesso il romanticismo ve lo faccio perdere tutto, però insomma c'è anche chi è innamorato dell'economia, della finanza, della borsa, dei mercati, e noi adesso a tutte queste persone ci rivolgiamo con il nostro piccolo focus sull'andamento dei mercati finanziari, perché anche osservando questi si possono confondere un po' i colori, non come i daltonici ma quasi. Ad esempio ieri abbiamo visto un rosso tra i listini europei, per qualche giorno c'erano stati dei rialzi che di solito abbiniamo al verde, esattamente come sta succedendo oggi. Dopo tanti giorni con il segno più, una presa di profitto o di beneficio, si chiamano così, è quasi fisiologica. È una parola che, Nicoletta, ti piace? Eh? Sì, molto. Perché fisiologica mi piace. Esatto, si abbina molto alle questioni di salute e di benessere. Perché succede tutto questo? Oggi ci racconterà come la pensa Carlo Benetti, responsabile della ricerca di Swiss and Global Asset Management, SGR. La dico la carica una volta, dopodiché non la diciamo più perché è molto lunga. Dottor Benetti, benvenuto. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Daltonico oppure no, tutto regolare? Semmai nel nostro caso rischia di essere daltonici sui mercati, di confondere il rosso con il verde. Ecco, ecco, questo è il rischio. Beh, diciamo che in genere le tendenze sono abbastanza chiare e marcate. Se la borsa va in rosso lo vediamo molto nettamente, no? Quello è. Perché ci preoccupa e ci fa andare anche un po' in fibrillazione. Allora, per i vostri quesiti sul tema dell'investimento, sui temi legati all'andamento dei mercati finanziari, subito 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. E questo è il numero per scriverci i vostri sms se volete raccontarci se i vostri risparmi sono in rosso o gli investimenti in verde perché stanno rendendo bene. Vi stuzzica l'idea di cavalcare il rally di borsa? E se ultimamente avete guadagnato qualcosa, ci raccontate come pensate di spenderlo o reinvestirlo? Conviene però investire adesso, dottor Benetti, perché qua questi mercati, anche se qualcuno forse non se ne è accorto, qualche piazza è sui massimi. Sì, come oggi la giornata dell'innamoramento, quindi palpiti, trepidazioni, esattamente come quando si ha a che fare con gli indici azionari, che Violetta nella Traviata di Verdi parla amore palpito dell'universo intero, però alla fine croce e delizia. Allora la delizia delle borse è cominciata nel 2009 e dopo tanto correre è quasi normale che arrivi la croce, cioè la preoccupazione su qualche storno. Però, visto che parliamo anche di vista, se l'investitore sa di avere una vista lunga, di lungo periodo, e guarda e si guarda intorno, vede che le borse sono ancora, certo, un luogo dell'investimento. Ritornando appunto alla domanda che le ho fatto un attimo fa, per chi accarezzasse l'idea di investire in questo momento, focalizzandoci naturalmente sulla borsa, che ricordiamo sui massimi almeno su qualche piazza finanziaria, lo è Wall Street, lo è Francoforte in Europa, quali sono le cautele da adottare? Benetti, ci dà qualche consiglio pratico, tre dritte che subito vadano al cuore degli ascoltatori. Sì, ha ragione, proprio per questa complessità. Ora, qualche dritta che non è acquistare la canestracci oil o il succo di arancia di Eddie Murphy, però tre dritte di metodo. E il primo, non innamorarsi, e qui rientro nel tema, ma non innamorarsi di idee forti, perché noi non sappiamo cosa accadrà in futuro. Noi possiamo solo fare degli scenari di probabilità, quindi evitare, anche se ad esempio oggi c'è una forte propensione, una preferenza per le azioni, questo non significa che allora impegniamo tutto e il portafoglio diventa completamente azionario. Quindi la seconda regola è diversificare, quindi tenere sia le azioni che le obbligazioni, all'interno delle quali magari lasciare delega, fare in modo che sia il gestore, che sia un professionista specializzato a prendersi la briga di muoversi all'interno delle valute, dei paesi, delle aree, dei temi. E quindi il terzo suggerimento è farsi accompagnare da un esperto, confrontarsi con lui. L'esperto, il consulente, è un po' come i marinai di Ulisse, che lo hanno legato e poi si sono tappati le orecchie e lo hanno aiutato a resistere al canto delle sirene. Ecco, anche noi, le nostre emozioni, siamo un po' attirati da paure, da emozioni, oppure da idee forti. Ecco, il consulente è il marinaio che ci dice di stare tranquilli, di muoverci con una diversa cautela. Certo. La borsa però ci aiuta ad andare molto bene o molto male. Direi che però ci sono anche le vie di mezzo, ci sono anche i grigi. Esatto, la borsa ha un trend laterale quando ha, come dire, questo colore grigio, per la verità. Non lo so, dottor Benetti, se è d'accordo con questa immagine. Quando la borsa ha il trend laterale, non prende né una posizione né verso l'alto né verso il basso, è sempre costante, è grigia. Ma possiamo dire grigio. Però possiamo accontentarci. Ci si accontenta, ecco. si naviga a vista in questi casi. Ecco. Noi navighiamo a vista e navighiamo naturalmente anche con il dottor Scialdone che... a cui vorrei così rilanciare tre parole che ho carpito dall'intervento del nostro ospite, il dottor Benetti. Mi sto rendendo conto che se noi come donna di cuore, gli esperti della salute parlano molto di fisiologico e patologico, tutti gli esperti di Deborah parlano, danno un verbo, diversificare. Ecco che possiamo prendercelo anche noi, dottor Scialdone, oggi, perché tante volte lei ci ha suggerito che bisogna anche un po' diversificare il punto di vista. Nello stesso tempo, quando noi ad esempio siamo molto impegnati a leggere o davanti al computer, insomma allungare l'occhio altrove può essere un ottimo metodo per defaticare i nostri occhi. E vorrei commentare anche con lei a proposito di diversificare: noi dobbiamo cercare un pochino di fare altro e guardare anche vicino e lontano, ma per i nostri occhi dovremmo anche muoverci. C'è una ricerca molto recente che dice che la corsa o comunque l'attività fisica sono protettive nei confronti della vista, e quindi questo mi permette di collegarmi al vederci lungo del dottor Benetti, perché il vederci lungo per la salute è investire in prevenzione e quindi in controlli che, guarda caso, devono essere effettuati da un personale, da un esperto, l'esperto a cui accennava il dottor Benetti. Tutto questo per dire che insomma i due temi di oggi si intrecciano e molte delle parole chiave che analizzeremo per i mercati possiamo spenderle anche per la vista. Dottor Scialdone. Beh, meglio di così penso che non poteva dire, sicuramente. Ha fatto un quadro preciso e diversificato. Sicuramente me lo dice così perché San Valentino è oggi è gentile romantico o perché l'ho meritato? Ma sicuramente la seconda. Buona la seconda. No, sicuramente staccare fa bene sia agli occhi che alla testa. Sì. Perché riduce l'affaticamento visivo. Quindi parliamo sicuramente se parliamo di borsa parliamo ovviamente di computer, ormai è tutto elettronico, se parliamo di libri vale lo stesso. Staccare la vista, guardare lontano significa riposare, significa migliorare il film lacrimale, la superficie dell'occhio, quindi forse più caffè o tè per come dire, interrompere frequentemente gli impegni continuativi, questo sicuramente aiuta sia per lontano che per vicino. Vedi che io lo faccio per la vista, di andare spesso alla macchinetta, sì, del caffè. No, ma infatti noi lo facciamo per quello. Poi dicono che si perde tempo, invece no, assolutamente, noi facciamo prevenzione naturalmente. Doveva completare, dottore? No, direi che sicuramente dal punto di vista visivo molte oggi sono le attività in cui gli occhi sono impegnati. Senza occhi siamo ormai nella nostra civiltà siamo un po' veramente handicappati, eccetera. Quindi tenere in grande considerazione la vista è importantissimo. Quindi occhio ai segnali, come si dice nel corso della trasmissione il dottor Scialdone ci aiuterà a fare degli semplicissimi autotest che non sostituiscono assolutamente la visita oculistica, ma insomma ci aiutano a vederci più chiara. Abbiamo già tantissimi ascoltatori, esatto, che ci chiamano 800 24 00 24. Deborah, tu li stai vedendo? Li sto vedendo, io sceglierei, se tu sei d'accordo, Giovanna dalla provincia di Milano, perché si cala perfettamente nel programma di oggi. Non sceglie di fare domande né relative a problemi di vista né relative ai mercati, ma ci racconta quello che le è successo oggi e il motivo per cui vede il colore oggi totalmente azzurro. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno al dottore, buongiorno Nicoletta. Buongiorno, e Deborah. Grazie. Sono molto emozionata e anche commossa. Effettivamente il mio colore oggi dovrebbe essere azzurro, ma in verità ci stavo pensando, è un colore arcobaleno, perché io ho 56 anni, ho una sorella che ha 21 anni meno di me, sì, figli degli stessi genitori, quindi già questa è una cosa molto particolare. E questa sorella che aspetta un bambino doveva partorire fra un mesetto. Invece oggi, combinazione, giorno di San Valentino, inaspettatamente ha partorito ed è nato Edoardo. Per cui direi che... Evviva Giovanna! Ecco, anche perché Giovanna entra, diventa un po', diventa zia, tutti gli effetti. E quindi devo accoglierla nel mio club di grande successo, Giovanna, perché qua il popolo delle zie è sempre più ampio, sempre più si guadagna grande popolarità. Giovanna, tanti auguri ad Edoardo, nato il giorno di San Valentino. L'aspettano dei momenti straordinari. Cuore e denari. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. E a proposito di colori, rosso e nero sono usati anche dalla finanza quando si deve descrivere il bilancio delle società, l'andamento dei conti delle aziende. Il bilancio è nero quando la società è inutile e quindi quando va bene, in rosso quando invece la società è in perdita. Siamo in piena stagione di diffusione delle trimestrali, faremo un punto tra un attimo sull'andamento dei conti delle aziende, visto che gli investitori, piccoli o grandi che siano, tengono in considerazione anche questi elementi quando si tratta di puntare su una società quotata. 800 24 00 24 per parlare del bilancio delle società, del bilancio dei mercati finanziari, ma anche per parlare del colore che vedete quando puntate appunto lo sguardo, magari, che ne so, Nicoletta, su un albero, perché quel verdino lì è quello più problematico di tutto, no? Di tutti, per i daltonici, se non ho capito male questa mattina, ma non solo. 349-238-6666 il numero anche per i vostri messaggi. Tra un attimo, chiedo solo loro un minutino di pazienza, sentiremo Luigi da Monza e Daniele da Milano pronti a raccontarci appunto la loro situazione. Adesso un commento invece, tornando a questa fibrillante situazione politica italiana, a Carlo Benetti, perché lo spread è in discesa, 202 punti base. Prima parlava della Traviata, della Croce Delizia, e questa lo è stata sicuramente anche per i disinteressati ai temi finanziari. In realtà l'andamento del differenziale fra Italia e Germania su questo titolo decennale poi ha riguardato tutti ed è ricaduto su tutti. Questa discesa di questi ultimi tempi, come la vede? Negli ultimi giorni ha fatto anche una puntatina sotto i 200 punti base. Certo, perché in realtà nel 2013, così come nel 2014, le carte del gioco, non solo quadri, cuori e denari, ma anche fiori e picche, soprattutto picche, continuano a darle le banche centrali. Uh-huh. E la Banca Centrale Europea nel 2012 ha sgomberato il tavolo dai rischi sistemici. Uh-huh. È grazie alla Banca Centrale Europea che oggi, da parecchio tempo, l'Europa è tornata un bel luogo da abitare per gli investimenti. Proprio questa mattina sono usciti i dati di attività economica dell'ultimo trimestre del 2013, che è uno 0,3 nell'ultimo trimestre, che è un ciancinino sopra lo 0,2 previsto, è un segno positivo. Poi certo, nello 0,3 ci sono i risultati molto molto migliori di Germania e Olanda, certo, poniamo, e i risultati un po' meno entusiasmanti, lo più 0,1 dell'Italia, però l'aspetto positivo che ha è un segno finalmente positivo anche per l'Italia o la Spagna. Allora questa Italia in questa, come dire, momento confusione politica, più che confusione adesso ormai la direzione è chiara, no? Perché non ha chiesto di sbilanciarsi dal punto di vista politico. Secondo lei però, con quello che succederà nei prossimi due giorni, questa nuova guida di governo? Ma vede, che è piuttosto i mercati, chiara. E poi dietro i mercati ci sono operatori, cioè persone carne e ossa, che hanno poco tempo e molte cose da fare, da studiare, hanno poco tempo per approfondire, hanno bisogno di messaggi semplici, lineari, quasi binari, e quindi certezza buono, incertezza brutto. Ecco. Loro vedono questo cambio di governo che stiamo vivendo in queste ore, lo stiamo commentando, vedono un allungamento dei tempi di incertezza, e cioè la tornata elettorale, non si preoccupano, come ci preoccupiamo noi invece come cittadini, delle sfumature, la maggioranza, una maggioranza politica piuttosto che un'altra, il cambio in corsa. Queste sono cose che lasciano e vengono lasciate agli osservatori e agli analisti politici. Come mercati guardano che c'è un cambiamento in corsa, le elezioni vengono il traguardo delle elezioni politiche viene allontanato nel tempo, si aspettano magari una accelerazione. Certo, questo ce lo aspettiamo tutti, no? Certo, nei mercati, dell'attività di la governo. La sensazione che questa iniziativa forte che Matteo Renzi ha preso un po' dalla borsa venga premiata. Poi non so se mi sbaglio, ma siamo qua davanti a questo terminale da un sacco di anni, un po' forse ci vedremo se tu ci hai visto lungo. E andiamo a sentire. Leggermente mio, devo dire, anche se corretto. Sì, esatto, leggermente, insomma, oltre 4. Però sono stabile da tanto tempo, per cui. Che questa è una buona cosa, vero? Sicuramente. Allora, perché permette di fare più chirurgia refrattiva volendo. È un invito, dottore? Allora, non le piace la montatura dei miei occhiali? Allora, questa è una indicazione. La miopia di Deborah è stabile. Sì. Questa è una buona notizia. Ci mettiamo un segno positivo. Certo. E quindi che colore gli diamo? È un verdone, che ci piace. Diteci se siete miopi, se la vostra miopia è stabile oppure ha avuto, un po' come succede nei mercati, qualche sconquassone. Andiamo a Luigi, che ci chiama da Monza, e poi Claudio da Brescia e Daniele da Milano. Luigi? Sì, buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Sta festeggiando San Valentino, me lo vuole dire? Certo, ho già festeggiato stamattina con una bella colazione a due. Bravo, Luigi! Non ci ha messo una rosellina, sì? No, niente roselline. Il pensiero è la compagnia. Poi i fiori è un conto non per stasera. Bravo. Bada Luigi, allora. Avevo questo qui da sottoporre al dottore, perché mi sono accorto che da un po' di tempo mia moglie, non so se per scherzo o per problemi, mi confonde i calzini, mi mette i neri con i blu. E io me ne accorgo solo quando li vado a prendere. No, l'importante è che non le mette i calzini di un altro. Però se scambia solo i colori, Luigi. No, mi mette i colori, comincio a preoccuparmi, perché anche quando veste il bambino mi fa l'abbinamento blu e nero, che lei invece ripensa e ritiene che sia tutto blu. Scusi, quanti anni ha sua Luigi? Moglie? Si può io dire. Ho 40, non posso dire tra mia moglie, ma ho 5 anni in più. Vabbè, allora è giovanissima sua moglie. E allora questo scambio di colori? Ma è strano, dottor Cialdone, però, è abbastanza strano per una persona giovane fare una cosa di questo tipo, nuova rispetto al passato. Non so, non posso fare nessun commento specifico, perché se avesse 60 anni sarebbe diverso. Se lei ha effettivamente questo dubbio, veda di farle mettere insieme i calzini in luce piena, invece che magari a mezze luci o luci un po' così. Se effettivamente non riesce a distinguere, forse è meglio che faccia una visita. Quindi se il problema insorge all'improvviso, in età abbastanza giovane, e quindi facciamo fatica a riconoscere i colori che prima invece selezionavamo e riconoscevamo senza problemi, questo è un segnale da tenere un po' sotto controllo, e quindi, a proposito di esperti, di andare a fare un controllo alla nostra vista. Possiamo sentire Claudio da Brescia e Daniele da Milano, invitando i nostri ascoltatori a superare la barriera rosa, anche se non festeggiano San Valentino. 800 24 00 24. Buongiorno Claudio. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno Claudio. E al dottore. Volevo rivolgere una domanda al dottore per quel che riguarda mia figlia. Sì. Mia figlia ha 9 anni e da un periodo strizza in continuazione gli occhi. Inizia al mattino in modo più controllato, per arrivare a sera addirittura ad avere quasi gli occhi gonfi, e addirittura cambia espressione per questo continuo strizzare gli occhi, e anche alla sera quando va a dormire che li chiude a occhi chiusi, tende ancora a strizzarli. Grazie Claudio. Dottor Cialdone, di fronte a questi sintomi, che possono avere tante spiegazioni, perché può essere un tic, può essere un'allergia, stress, può essere allora come ci si orienta, diciamo, per che... non fare il giro delle sette chiese? No, certo. Allora, la prima domanda da farsi è se ci vede bene. Se non dimostra, per una bambina di 9 anni è sicuramente una persona collaborante che è in grado di dire se vede bene o non vede bene la televisione, eccetera. Da come lo descrive, però, credo che la cosa più probabile sia un incremento di una allergia magari stagionale o ad alcuni fiori, piante, quel che sia, che o magari anche agli acari, alle muffe di casa. Abbiamo parlato proprio dell'inquinamento indoor, che assolutamente non ha nessun rispetto a quello esterno. Le intolleranze sono, come sappiamo, molto molto in aumento nella popolazione delle città e dei nostri grandi paesi sviluppati. Quindi il problema degli occhi si risolve con qualche collirio, credo che non debba esserci grandissimi problemi. Gli conviene però, se effettivamente è così, a parte la visita oculistica, fargli fare dei test allergologici. Chiudiamo con Daniele, che ci chiama da Milano all'800240024. Daniele, buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri ospiti. Auguri, Daniele. Grazie, altrettanto a tutti voi e agli ascoltatori. Volevo fare una domanda al dottore. Sì. Allora, circa un anno fa hanno diagnosticato un inizio di come si chiama? Quando l'occhio si appanna un po'? Di cataratta? Sì, sì. Ecco, un inizio di cataratta all'occhio sinistro. E volevo chiedere al dottore quando è il momento di intervenire. Io sentivo i miei genitori che dicevano va fatta quando la cataratta è matura. La mamma e il papà hanno sempre ragione, ma talvolta poi la ricerca lo smentisce, perché adesso invece la moda è cambiata un po'. Talvolta la medicina avanza. Dottor Cialdone, esiste oggi, una stagione ideale? La stagione ideale di solito è quando la vista è insufficiente al mio lavoro, alle mie normali attività quotidiane, sempre che non si esageri. E quindi il non si esageri lo consiglia ovviamente l'oculista, il resto lo giudichiamo da soli. Come abbiamo altre volte detto da questi microfoni, le esigenze forse di un pilota, per estremizzare, di un pilota di aereo sono diverse da quelle di un normale impiegato di banca, tanto per non fare esempi, nel senso che le necessità di acutezza visiva. Quindi non bisogna aspettare che sia matura la cataratta, tra l'altro comunque negli ultimi anni sempre più persone giovani, sembra che l'età, no, dell'intervento della cataratta si sia sensibilmente abbassata, quindi non è così un'operazione da anziani. 800 24 00 24, Nicoletta col dottor Cialdone e Carlo Benetti parlavano di stagione ideale per fare questa operazione, le faccio invece una domanda su un'altra stagione che è quella che stiamo vivendo in questo momento, che è quella delle trimestrali. Le società appartenenti ad ogni settore stanno comunicando i loro risultati che hanno raggiunto al dicembre appunto dello scorso anno, quindi l'ultimo trimestre del 2013. Come stanno andando le cose? Prima abbiamo fatto un piccolo ragionamento sul PIL italiano, che è molto modesto, in altre economie si cresce molto di più, noi guardiamo soprattutto alle trimestrali di Corporate America, delle società americane. Che sensazioni avete? Come stanno andando le cose? Il colore, proprio rimanendo nel gioco del rosso e del verde, il colore è verde. Per quanto possa essere significativo questo dato, e ora magari perché le aziende stanno ristrutturando molto, per cui i conti in verde sono anche determinati da questo. C'è anche questo, è certamente vero, c'è anche un aspetto di questo gioco delle parti tra le stime che vengono fatte in ex ante, cioè prima, il consensus che si dice in gergo come finanziario. Da una parte le stime che annunciano le società, dall'altra le stime che autonomamente costruiscono gli analisti nel consensus, e poi il risultato vero, il momento della verità. Nel Corporate America, quindi delle 500 società che compongono l'indice, lo Standard & Poor's, uno dei più liquidi, uno dei più osservati, ad oggi sono 391, poco meno di 400 a aver rilasciato i risultati trimestrali relativi all'ultimo trimestre del 2013, e circa il 70% ha dato risultati positivi. Ha battuto le attese, insomma. Sì. In questo senso dicevo il colore verde. Quindi c'erano delle aspettative molto basse, o comunque è una questione anche di prudenza, no? Visto come sono andate le cose negli ultimi anni, anche la comunità economico-finanziaria parte dal basso, perché poi appunto si fa sempre presto ad essere sorpresi, e quindi a ridare anche un po' di come dire, linfa alla borsa in questo modo. È una strategia? Mi chiedo. Esatto, è un po' quel gioco delle parti, di anche dare stime di previsioni più basse, prudenziali, per poter sorprendere, questo da parte delle società. C'è anche un gioco di trappola mentale, di ancoraggio, si tende a fare proiezioni sui dati, sui dati storici, si cerca di adeguarli, quindi c'è anche questo aspetto. Il terzo aspetto, ed è quello significativo ed è rilevante agli effetti anche delle scelte di portafoglio che si vanno a fare in questi giorni, è che nel 2013, a fronte di una ripresa economica tutto sommato non eccezionale, non sibaritica, inferiore al dato del 2012, però le borse hanno festeggiato a doppia cifra, perché nel corso del 2013 c'è stata una sorta di re-rating, di riqualificazione del livello dei multipli generali delle società, e questo ha generato una performance azionaria molto, molto soddisfacente. Però insomma anche questo scollamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'economia reale ha generato molti, molti quesiti, no? Perché se l'economia cresce relativamente, la borsa va più di questa, anche questo è un tema da affrontare. Cuore e denari. Riprendiamo il nostro programma, perché adesso in realtà vogliamo fare una cosa molto divertente con i nostri ospiti, ma sempre con contenuto, come siamo abituati a fare, perché siamo pronte ad incuffiare, anche se lo sono già, Carlo Benetti e il dottor Scialdone, per far loro il quizzone. Mi viene anche, ho fatto anche la rima col suo cognome, dottore, mi guardi un po'. Allora, cominci tu, Nico? Sì, vogliamo, dottor Scialdone, abbiamo visto le aspettative che molti investitori hanno nei confronti dei loro investimenti nelle borse, aspettative a volte rosee, un po' come fanno un po' le persone che hanno delle aspettative nei confronti della chirurgia refrattiva. Solitamente uno butta gli occhiali alle ortiche ed è convinto, e anzi spera, di sottoporsi a questo intervento e di risolvere tutti i problemi di vista. Funziona nella maggior parte dei casi così, ma a volte si devono in qualche modo sopportare del, li metto tra virgolette, effetti collaterali. Ne abbiamo parlato tante volte, tanti nostri ascoltatori ce l'hanno raccontato, ad esempio dopo l'intervento per la correzione della miopia, vedere di notte le luci diventa più faticoso, c'è chi lamenta magari una lacrimazione poi più forte rispetto al tempo precedente all'intervento, insomma tanti piccoli disturbi che in qualche modo si devono pagare per aver tolto gli occhiali. Fanno parte del gioco, ma non li vorremmo. Allora, chirurgia refrattiva sì, no, anche la chirurgia refrattiva insomma ha le luci e le ombre. Lei la cuffia ce l'ha, noi partiamo, domande secche, risposte secche, ma molto molto precise e utili per chi ci sta ascoltando, perché Cuore Denari vuole essere semplice ma utile. Sì. Tu sai? Non lo so, Mike buongiorno, Sabina Ciuffini, chi preferisci? Dove ti senti tu? In quale parte ti senti? A me piacerebbe più fare la Sabina Ciuffini. E va bene, io faccio piace. Mike buongiorno, ma le domande per il dottor Scialdone comunque... No, la comincio io. Dottore, fino a che età è conveniente fare una correzione? Non c'è un'età precisa, fino all'età della cataratta. Quante diotrie si possono correggere? Normalmente fino a 8-9. Non tutti gli occhi sono adatti al trattamento laser. Su cosa si basa la selezione, dottore? Principalmente su numero di diottrie, spessore della cornea, diametro pupillare, secchezza degli occhi. Ma se uno è cocciuto e il laser lo fa lo stesso, anche se non rientra in questi parametri? Lo mando da un collega. C'è un periodo migliore dell'anno della vita per operarsi, dottore? No. No, in generale però non, meglio non poco prima delle vacanze, soprattutto se si va al mare. L'intervento è per sempre, un po' come il grande amore? Quasi sempre, sì. Cosa succede a lungo termine dopo l'intervento? Niente, ci si vede bene. A proposito di lungo termine, visto che qua è un termine che anche utilizziamo nella finanza, qual è oggi il lungo termine della borsa? Si dice spesso che bisogna armarsi di santa pazienza, il concetto che si cerca di trasmettere di più è che la borsa, dottor Benetti, non si guarda giorno per giorno, anche se abbiamo una vista ottimale, bisogna un attimo che questa abitudine ce la scrolliamo di dosso. E questo è sacrosanto, questa gliela firmo con il sangue. Ecco. Per carità. Mamma mia. Perché è verissimo, anzi è dannoso controllare il proprio portafoglio tutti i giorni, proprio perché aumenta l'emotività, si rischia di prendere decisioni del breve periodo sull'emotività di un dato, decisioni che poi si rivelano dannose. Diceva un economista, se ti vuoi divertire prendi $1,000 e vai a Las Vegas, ma non è nell'investimento che trovi soddisfazione ed eccitazione. L'investimento deve essere un'attività noiosa. Se devo proprio essere sincera, io ne conoscevo un'altra, lo dice un grande banchiere italiano: investi in borsa i soldi che sei disposto a perdere. Questa anche, è un po' più forte, però diciamo che il concetto è un po' questo. 800 24 00 24, se avete il vostro portafoglio investito in rosso o in verde, raccontatecelo, ma anche raccontateci, continuate a fare le vostre telefonate per raccontarteci come vedete i colori, ma soprattutto come sta andando la vostra vista. Siamo partite dalla miopia di Deborah, che è stabile, e la vostra come sta andando? E soprattutto, avete effettuato un intervento di chirurgia refrattiva? È andato tutto bene? Volete raccontarci le luci, ma anche le ombre? Ne vogliamo parlare? 800 24 00 24. Benedetto, buongiorno da Varese. Buongiorno, due domande velocissime. La prima che mi preme è, perché tanto ormai l'operazione è andata non bene, se io avrò, ho io fatto la chiararatomia radiale 12-15 anni fa. Che è un'operazione, dottor Cialdone, per salvare, non si fa più, ma era per? Era per la miopia. Per la miopia. Posso adesso, Benedetto diceva? Non ho problemi, eventualmente mi venga la cataratta avendo fatto quell'intervento? Potrebbe avere, no, non ha problemi tecnici di esecuzione della cataratta, potrebbe il chirurgo avere qualche difficoltà nel calcolo del cristallino artificiale, però esistono formule e modi di poter compensare la cosa. Abbiamo ancora tempo per una telefonata? Dobbiamo, sì, Rino da Milano, Diego da Genova, quale dei due preferisci? Diego mi piace. Diego, buongiorno Diego. Buongiorno e grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Una domanda velocissima. Mio figlio ha 5 anni, sì. E guardando i cartoni noto che istintivamente, al posto di rimanere con la faccia frontale allo schermo, sì, porta l'occhio sinistro più avanti rispetto al destro, quindi sguarda rispetto al televisore. Nonostante io non penso che lui abbia né problemi di udito né problemi di vista, sembra quasi che mettendosi con la faccia sguardata rispetto allo schermo lui apprezzi di più o si concentri di più relativamente al programma. Volevo sapere se è il caso. Diego, il suo bambino è già stato controllato dall'oculista? Sì, lui ha fatto tutte le visite come da programma del pediatra e nulla mai è risultato a suo carico. Quando ha fatto la visita oculistica? Allora, l'ultima visita oculistica lui l'ha fatta, mi sembra, 6 mesi fa, però questo... Questo atteggiamento continua anche quando era più piccolo. Allora, dottor Cialdone, Diego ha fatto controllare il suo bambino, la vista è a posto e quindi non ci sono elementi per temere che sia un problema, certo, di vista. Ma Diego ci introduce in un argomento importante. Diamo due consigli ai genitori che vedono spesso i loro figli davanti ai la TV, ai videogiochi. Schermi. Li raccontiamo, adesso non abbiamo tempo perché dobbiamo andare al GR. Il consiglio principale è: controllate il tempo che ci stanno davanti o insieme al videogioco, di non esagerare, tutto va bene ma senza esagerare. Cuore e denari. Minuti di tempo davanti a noi che saranno ricchissimi di notizie, cose da fare, telefonate, ne sentiamo immediatamente un'altra. 800 24 00 24 per vedere più rosa. Esatto, ecco, come vedono oggi tutti gli innamorati. Direi di sentire Rino da Milano e poi chiedo al dottor Benetti di prepararsi perché il quizzone tocca anche a lei. E si incuffi come si deve. Eccoci qua, Mike e Sabina. Rino, buongiorno. A me piaceva anche Corrado, però. Va bene, Corrado. Dai, sì, fai Corrado. Faccio Corrado. Dai, Rino. Allora. Buongiorno. L'importante è che tu non ti senta Napoleone, perché sennò mi preoccupo. No, non esageriamo, non ho queste manie di grandezza. Rino, buongiorno. Sì, buongiorno. E allora, come va? Ma va bene. Volevo chiedere una cosa al dottore. Guarda, io ho fatto un preventivo prima per fare l'intervento agli occhi e mi sono sconsigliato. Io soffro di miopia. Sì. Però adesso invece mi sono accorto che molto spesso ho proprio un abbassamento di vista che non è correlato con la miopia. Tipo la sera, ecco, mi dica un po', quando? La sera, quando è stanco non vedo bene, oppure la mattina appena mi alzo vedo un poco vedo proprio un po' offuscato come vista. Ma quanti anni ha? Io ne ho 41. Ma allora, dottor Sciarpa. Giovane. Giovane. Mm-hmm. Ma vede offuscato cosa? I primi 2-3 minuti quando si alza? Come... Esatto, primi... Beh, momentaneo, diciamo. Pensi poi, che poi... noi abbiamo anche la mente annebbiata e offuscata fino a metà mattina, dottor Cialdone. Quindi... Può darsi che il nostro amico soffra di qualche irritazione di superficie, non so se in correlazione o no col suo lavoro, e che quindi quando si alzi la mattina la superficie degli occhi faccia un po' fatica a mettersi in moto. Adesso mi sembra che i sintomi siano adesso arrivano un po' dalla regia, dottor Cialdone, arrivano che questo microfono, adesso gli leggo le mani dietro la sedia così lo imprigioniamo. I chirurghi soprattutto bisogna legargli le mani perché... E quindi che cosa può avere il nostro povero Rino da Milano, 41 anni, allora, Rino, ma suppongo che abbia un po' di blefarite. Ma ecco, invece, quali sono i segnali che ci devono far capire che la nostra vista sta ha un problema, quindi abbassamenti improvvisi, soprattutto abbassamenti persistenti, questo sì. Gli abbassamenti persistenti vuol dire per diverso tempo, per diverse giornate, un occhio diverso dall'altro, non vedo bene per lontano, non vedo bene per vicino, ci sono delle cose che prima vedevo e adesso non vedo. Fate ogni tanto la prova dell'occhio, provate a vedere le cose con un occhio, poi tappatevi l'altro e li rivedete. È un test molto semplice che però ci dà un po' la misura. Quindi questi sono un po' i segnali. Tra l'altro, adesso approfitto, così tutti hanno gli smartphone, ci sono delle app con cui potersi provare gratuitamente, le potete scaricare, provarsi non solo la vista ma anche il senso del colore. Le tavole di Sciara semplificate, che sono di solito dei numeretti scritti tutti a colori con palloncini come se fossero dei quadri di Roy Lichtenstein, quelli tutti a coloretti così, e uno deve distinguere, se uno non distingue i numeri qualcosa non quadra. Ma noi abbiamo il nostro rischio, esatto, tutto. Esatto, però intanto continuiamo ad invitare i nostri ascoltatori a vederci chiaro nei loro investimenti, nei mercati su cui hanno puntato, nei prodotti di investimento che hanno scelto, a guardare chiaro anche davanti a loro se vedono più o meno chiaro, offuscato, se vedono un grigio e invece la compagna dice che è giallo, no? Perché oppure dei lampi, ecco, delle moschette, dei filamenti. E quindi per tutto questo 800 24 00 24, adesso il nuovo quizzone. Salva Danaio. Eccola qua, Corrado e Mike sono pronte. Chi comincia? Dai, comincia tu. Con Carlo Benetti ritorniamo al quizzone, in questo caso sui mercati finanziari. Dall'inizio dell'anno i mercati internazionali sono stati più rossi o più neri? Alcuni rossi, alcuni verdi. Diciamo che è un rosso tendente al verde. Con questi tassi di interesse in Europa, guardando all'Italia che ha un PIL praticamente sotto zero, poco più in alto, meglio la borsa italiana o i titoli di Stato italiani? Entrambi, perché ci sono buone prospettive su entrambi. Per una giovane coppia che magari oggi festeggia San Valentino, meglio investire in mattoni o in azioni? Il mattone per abitare, le azioni, ben inteso, non peccaminose, per risparmiare. Qual è l'investimento ottimale per una piccola cifra? Quanto piccola deve essere? Qualsiasi cifra merita il più grande rispetto, perché è sempre frutto di risparmio. Le possibilità offerte dai mercati finanziari, cioè soluzioni flessibili, consente un investimento sofisticato anche con poche migliaia, veramente poche migliaia di euro in una strategia flessibile dove il gestore che fa tutto. Qui si deve davvero sbilanciare, una previsione ce la deve fare, poi fra un anno la interroghiamo di nuovo per vedere se ci ha azzeccato. Quale sarà la borsa che più delle altre correrà nel 2014 e quella che invece deluderà di più? Vabbè, questa è una previsione che non ha nulla di scientifico, nulla di attendibile. Mette le mani avanti. Sto al gioco. Allora diciamo che una borsa con buone prospettive è quella italiana. Ah. Per la composizione del listino bancario, utilities, mentre una borsa che potrebbe deludere ed è stata sugli scudi nel 2013 è quella giapponese. Benissimo. Hai visto? Allora provate anche voi con un messaggio, con un tweet a dirci quale sarà secondo voi la borsa più verde e quella più in rosso alla fine del 2014. Poi noi li raccogliamo e li rileggiamo tra un anno. Intanto, a proposito di lettura, quando leggete, i vostri occhi fanno il loro dovere? Oppure si stancano, lacrimano, a modificarsi sono le lettere, le righe del test. Provate allora a fare un semplice autotest di valutazione, guardate un'immagine, se avete davanti a voi un giornale, qualche cosa di scritto, leggete, guardate e soprattutto chiamateci 800 24 00 24. E oltre ad un test dei vostri occhi, provate anche a fare un test dei vostri progetti e ragionate se avete investito proprio in un'ottica di progettualità di medio-lungo termine. Fateci le vostre domande e vedremo se ci avete visto lungo. 349 238 6666 per i vostri messaggi. E allora vogliamo dare la parola ai nostri ascoltatori. Certamente. Che ci stanno chiamando. Iniziamo da Gianluigi dalla provincia di Roma. Gianluigi, buongiorno. Mondo. Qua siamo molto curiosi di sentire Gianluigi che cosa ha scelto di fare. Eccoci qua. Pronto, sì. Mi sente? La sentiamo. Sì, molto bene, vada. Oh, prima di tutto, ecco, io aspettavo proprio questo momento in cui si parlava proprio di questi degli investimenti dei nostri risparmi. Lo stavo proprio aspettando e l'ho beccato. Eccoci qua. Nel senso che io ritengo di aver trovato, meno male, un fondo azionario dalle uova d'oro. Perché? Perché questo fondo, adesso le dirò anche il nome così voi poi andate a indagare. No, non ce lo dica perché in realtà noi conserviamo la sua privacy, Gianluigi, e magari non facciamo pubblicità. Ecco. Vabbè, comunque è un fondo azionario, già ha detto tanto. Che cos'ha di miracoloso? Questo fondo, diciamo, il mio promotore, ecco, questo fondo che offre come cedolare, quindi è un fondo cedolare, quindi mi garantisce un'entrata mensile. All'otto, perché voi conoscete, quindi i fondi cedolari, voi già sapete, è un dividendo, quindi è un dividendo dell'8% del capitale che uno, diciamo, sottoscrive un capitale ed offre il 20%, è l'8%. Da quanto l'ha investito Gianluigi intanto e per capire da quanto riceve mensilmente un flusso? Io diciamo questa sottoscrizione l'ho fatta diciamo il 17/12/2013. Allora quindi già lei sa che per tutta la vita ci sarà questo flusso cedolare? Come? Lei sa già che per tutta la vita, per tutta la durata dell'investimento ci sarà mensilmente? Allora, il maturato viene ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi c'è il maturato dell'8%. Allora, il mio promotore mi dice... No, Gianluigi, volevo fare un commento subito con Carlo Benetti su una scelta di questo tipo, che è anche abbastanza ricorrente su chi vuole integrare il suo reddito mensile o comunque annuale proprio con una cedola, con un dividendo, ed è generalmente il prodotto più gettonato proprio perché cerca un'entrata extra, no? Esistono molti fondi di questo tipo sul mercato? Sì, è corretto, proprio perché... sono stati creati, anche se è contraddittorio rispetto allo spirito del fondo comune, perché si parla di fondo comune di accumulazione, quindi si prevede un'accumulazione del tempo, però è un'esigenza perché queste cifre mensili o trimestrali aiutano a pianificare il risparmio e le spese delle famiglie, quindi sono molti prodotti in questo senso. In genere... la cedola, quella che impropriamente chiamiamo cedola, ma è retrocessione di parte del rendimento, è frutto dell'apprezzamento dei corsi, dei titoli contenuti nel fondo e dalla cedola vera e propria, che i titoli staccano. O nel caso di azioni, dai dividendi. In genere la misura percentuale dello stacco, della retrocessione annuale viene misurata ogni anno. Ma non credo ci deve generare che sia qualche dubbio? Esatto, questo 8%. L'8% può venire indicato in inizio anno immaginando un apprezzamento dei corsi e una stima di cedole e dividendi e poi se non traguarda intacca il valore della quota. Certo. Quindi in realtà poi il gioco è a somma zero. Anche perché poi mi pare abbastanza strano che possa già dire che otterrà questi risultati per lungo periodo se ha investito a dicembre. Quindi insomma galline dalle uova d'oro da consigliarci. Purtroppo esistono buoni prodotti e sono certo che il prodotto di cui parla il nostro ascoltatore da Roma appartenga al novero dei buoni prodotti. Purtroppo non esistono prodotti che vincono sempre, che rendono sempre in qualsiasi condizione di mercato. Questa è una cosa che dobbiamo ancora inventare. È un po' come noi, no? Non è che tutti i giorni siamo al top. No, sono più quelli in cui siamo un po' sotto il top. No, dottor Scialdone, lei oggi ci vede in forma smagliante, anche perché ci guardiamo molto attentamente, visto che la puntata è su questo. No, anche perché lui ha buon gusto e quindi... Quello è vero. Sonia, buongiorno, dalla provincia di Cagliari. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda all'oculista. Io circa 15 anni fa ho fatto l'operazione per la miopia con il laser e ho corretto totalmente la miopia. È contenta? Sì, adesso... Lo rifarebbe, Sonia? Non ho capito. Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei. Lo rifarei senza dubbio. Però cosa vuole raccontare al nostro oculista allora? Però il problema è che prima dell'operazione, circa 15 anni fa l'ho fatta, io riuscivo a utilizzare le lenti a contatto anche tutto il giorno. Invece negli ultimi 5 anni, perché adesso un pochino mi è ricalata la vista, adesso 1,75. Vabbè, sono passati 15 anni. Contro gli 11, 9 e mezzo che mi mancavano prima, vanno benissimo, però non riesco più a utilizzare le lenti a contatto. Mi danno enormemente fastidio. Fastidio, sì. Sonia. Volevo sapere se dipendeva dall'operazione. Non so. Come la mettiamo, dottor Cialdone, con queste lenti a contatto? Mi è sfuggita l'età della nostra... Non l'ha detto, non possiamo chiederlo. Sonia vuole dirci? Allora, però la voce è giovanile, esatto. Secondo me avrà 30, se fosse secondo me avrebbe, ma avrà circa 40 anni, non ancora. Allora, faccio un paio di commenti. Uno, come si diceva prima, un limite ragionevole per nelle aspettative di non portare occhiali è intorno alle 8-9 diottrie. E la nostra ascoltatrice ha fatto più o meno una cosa così, quindi quel tot in cui forse l'intervento non riusciva a coprire, adesso lentamente se lo trova così come residuo, che però ha una controfaccia, che è quella che tutti diventiamo presbiti, anche se lei sarà giovanissima, e che quindi questo l'aiuterà a fare tantissime cose, computer e vicino, senza occhiali. Quindi è un risvolto positivo della medaglia. Quindi è un regalo degli anni, come si dice. Vogliamo rispondere a Daniele che ci scrive da Venezia, è un camionista che se non ci ascolta la mattina ci ascolta di notte, quindi è proprio un nostro. D'altronde non si può staccare da noi. Vuole sapere quando comincia a vedere bene un neonato, a proposito di colori. È vero. E poi ho anche un'altra domanda di un'ascoltatrice che ci scrive via SMS, quando cambia il colore degli occhi dei bambini. Insomma, andiamo nel reparto bebè. Bisogna aspettare alcuni mesi. I primi mesi i bambini vedono molto sfocato e apprezzano soprattutto i movimenti, quindi le cose che cambiano, le cose dinamiche. Poi lentamente sono estremamente ipermetropi, che vuol dire che non riescono a mettere a fuoco bene, perché il cristallino è molto grosso e poi l'occhio rispetto alla grandezza dell'occhio, che nei primi mesi comincia a ingrandirsi progressivamente fino lentamente ai 6-7 anni di grandezza. Di età. Quindi a partire dai 6-7 mesi poi i bambini cominciano a guardare meglio il volto della mamma, vedono gli occhi, hanno l'imprinting e un sacco di cose, quindi non si può pretendere prima di alcuni mesi effettivamente. Però vanno anche a naso i neonativi, quando sentono invece, l'odore delle zie vanno in visibilio. È vero. Invece il cambio del colore ai primi mesi. Primi mesi cosa vuol dire? 2 mesi? 3-4. 3 o 4, perché l'ascoltatrice ci scriveva, ha gli occhi blu ma li cambierà. Magari non li cambiano, perché io ho 2 figlie, hanno tutte e 2 gli occhi blu, una più intensa e l'altra meno, e sia io che mio marito abbiamo gli occhi scuri. Era simpatico quell'idraulico che è passato a casa. Però, Va bene, e vuol dire che si è trovato bene ed è venuto una seconda volta. 800 24 00 24. Claudio, buongiorno, dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Non fa l'idraulico lei? No, faccio l'ingegnere. Bene. C'è anche l'ingegnere idraulico, ci vanno no? molto bene anche queste professioni qua. No, Claudio, vada. Elettronico. Vada, Claudio. Comunque, volevo chiedere questo al professore. Sì, io ho notato questo, che io ho 61 anni, sono un po' presbite, nel senso che uso gli occhiali per leggere da... Sì. Una diottria e mezza, e ho notato che ultimamente durante la guida notturna faccio difficoltà a vedere bene le varie cose, quindi sto chiedendo se vale la pena prendere un provvedimento. Un paio di occhiali per qualche provvedimento. Primo. Secondo, un'altra cosa che mi succede è che verso le 3:30 fatto del pomeriggio sento la necessità impellente di andare fuori dall'ufficio all'aria aperta perché gli occhi mi danno fastidio, mi bruciano. Questo capita anche a me, se devo essere sincera, ogni tanto, ma non perché guardo Nicoletta tutto il giorno, ma perché il computer, no, però davanti il bel computer tutto allora, il giorno, anche ogni volta Sheldon. Sento l'esigenza di una boccata d'aria fresca mi venire, sì, ma indirizzata, sì, agli occhi. Beh, se non vede bene la sera è probabile che il nostro ingegnere abbia un piccolo difetto di vista che si sta cominciando a manifestare, quindi un altro paio di occhiali sì, però lui non ha, non so quanta garanzia abbia che il difetto di vista sia uguale nei due occhi, quindi piuttosto che comprare una roba così dai cinesi forse è meglio che si faccia un controllino. Seconda. Perché? No, ti sei. No. Allora, no, non sentirti in imbarazzo. No, ma io infatti gli occhiali comprati posso anche cinesi. Non metterlo. Io li compro. No, ma no. Perché? Perché sono tutti colorati e lei è un po' c'ha questo vezzo, ovviamente, di sentirsi fare i complimenti per gli occhiali sempre carini. Ne avrà 200, li dissemina in tutta la redazione e noi poi le corriamo dietro e a riportarli. E tutta la redazione li usa. Ecco, perché quindi, sono be- a proposito di differenza da un occhio a un altro, dottor Sheldon, qua sono tutti lei lo stesso venga difetto. Qua a lavorare. Quindi ritorniamo al nostro ingegnere, perché io vorrei parlare anche di scrittura tra poco con sì, Deborah, sì, perché sì, voi sì. Due potreste essere dei nostri candidati ideali. Mm-hmm. Allora, se il problema diventa, insomma... Ma certo, molto tempo al computer, immagino che faccia tutto davanti mm-hmm. a uno schermo e che quindi la sera, il pomeriggio cominci a bruciargli un po' gli occhi, è del tutto... comprensibile. Quindi cosa si può fare oltre che a rassicurarlo? L'impacco? Il palming? Ah. Il palming può essere un'idea. Le piace? Cioè? Sì, sì, sì, sì. Ma diteci che cos'è, non è che rimaniamo. Cioè, togliersi gli occhiali se li porta, chiudere gli occhi, appoggiare i gomiti sul tavolo e appoggiare le palme delle mani sugli occhi chiusi senza premere, aspettare un minuto o due, magari girandoli leggermente. Questo molto provoca bene. Spesso un sollievo. Allora, sì. Che cosa volevamo dirvi? Posso leggere solamente un messaggino su Facebook? Perché certo. Sai che gli ascoltatori ci scrivono anche qui. Seguite l'andamento dei mercati. Pier Francesco ci scrive. Decisamente verde, vedo l'andamento dei mercati, sto per chiudere alcune posizioni aperte qualche giorno fa. Ecco, attenzione, per chi vedesse questo suggerimento su Facebook, non fatelo tutti, perché anche questo mordi e fuggi in borsa è solo per operatori professionali e molto scaltri. Andiamo? Allora, noi volevamo chiedere ai nostri, abbiamo pensato che i nostri due esperti sono i nostri candidati molto ideali, bene. A cui noi oppure vogliamo dedicare questa iniziativa che è Cuore Denari e Vitali. Che cosa bisogna fare? Bisogna andare sul sito di Radio 24, trovate due incipit. Esatto, trovate due incipit e la mascherina dove potete completare i racconti, i cui incipit ieri sono stati appunto letti dall'autore di queste prime parti di racconto, che è Andrea Vitali, quindi completati i racconti, ma nel due completamenti dovete mettere due parole chiave. Se volete completare il racconto di cuore, dovete mettere la parola cuore. Se volete completare il racconto di denari, evidentemente dovete inserire anche la parola denari. In palio ci sono tante smart box. Quindi? Ho detto tutto, quindi scrivete Carlo Benetti, vada a scrivere, mi raccomando, e anche lei dottor Sheldon, perché se non vediamo i vostri nomi tra tutte le decine, centinaia di migliaia di racconti che ci arriveranno, ci veniamo offendiamo. A passare una giornata intera con voi. No! A lunedì, buona giornata. Grazie, buon weekend.